Fateci. Sera prima di dormir pregheremo per portare a voi la felicità. Fateci, fateci, fate un poco di carità. A piedi nudi noi giriamo stendendovi le nostre mani, e quindi non potete rifiutare a noi, che poverelli ci troviamo fino a quando non avremo la vostra carità. Fateci, fateci, fate un poco di carità. Fateci, fateci, fate un poco di carità. Due fraticelli soli siamo, in giro per il mondo andiamo, chiediamo solo un po' di carità per noi, e sera prima di dormir pregheremo per portare a voi la felicità. Fateci, fateci, fate un po' di carità. A piedi nudi noi giriamo stendendovi le nostre mani, e quindi non potete rifiutare a noi, che poverelli ci troviamo fino a quando non avremo la vostra casa.